Non so, io questa base magnetica sul coleo, sopra lunga, per attaccare a wifi del PC, dove mi sa ben arrivare che mondo il modulo, che mondo, e messi sì, dai cura una 60enne. E il cazzo c'è lo creo, oh, è lunga su manco 30 centimetri. Ma che garrigata a me, cazzo ce l'hai idea? Cazzo, se non riservi questa tanto vette, tanto, tanto blu si è musificato giusto. No, no, Tore, no, non c'è qui, già dico, no, no, allora, perché è santena capobalanza, boh, perché è santena giusta, santena, santena è quella che ha la sua modulo, boh. No, non vi servi direttamente, no, questo campo non lo potessi allungare, cazzo, questa dosica è in mezzo. No, non sante nada, un metro di capo, non di cui si sono due, un metro su tre. Però con il vicino sul baccone, lui, lei le comprende. Non dici su la seconda città. No, no, questa è un'altra cosa. Un'altra ancora, non ci deve andare in sante. No, no, questa è un'altra cosa ancora. Un'altra cosa ancora più studiato. Tanto, tu poni su questa slot, no? In tre su PC. E giù questo wifi a bordo. E ci vedo un antennino, io andavo con questo antennino e li collego sempre in alto guadagno. Ah, se avete diventato un vice trasmettitore full duplex alto guadagno, tu come te lo conosci su baccone, si segnale, se si cricia, lo amplificate da che osso. Quindi mi dà minimo bilico 20 come te punto. E entra da tappetto, semplicemente. Questa pannella è più incasinata, che le fanno buxa copertura tutto, invece questa l'appoggio sul baccone, poi hai qui, la presa funzionante, buh, tutto, tutto QM. Vabbè, ci può provare la faccia della presa, non va che... Mannato un attimo, tu prova questa, se funziona questa noi ce l'hai fatta nel buco, se funziona questa tu l'appoggio sul baccone, andiamo, non è che... Vabbè, vediamo quale va meglio, è ben naturale, no? Ma non ho problema, tanto la sopravvende tutto. Se perché andare bene non le amo. Boh, la fruttina, ho già messo te. Uomo, di chi me la dà, dando l'atto, la proviamo. Perché quando si sono sulla però non ha senso. Se tu hai un segnale che si può leare benissimo e che porta tanto a deghe di viai, no? Il suo macone, il te cazzo di le vaghe, cioè anda benissimo, non è gai. Non lo so già, non lo so cosa dire. Ci faccio segnare su un corso di aerogenere che si può mettere, ma è un segnale che ma poi non lavoro mai, poi non so chi non ha fatto un oranzo come in te cuscia, sicuramente non è che non tenne 30 centimetri. Ma tu hai detto che questo è sì, però immagina di questa con un'antenna, è che non va l'attacco in cui sei già, hai compreso? E sai che la fretta non va, ma un'antenna interna minoredda, e sai che giù che da bordo. Invece, questo modulo esce, come entra una chiavetta, però giù questo attacco con l'antenna, compreso? E basta, un'antenna, diventa un'antenna esterna. Ed è sicuramente un'antenna fifi, che se mettessi all'anno, a noi di B, preciso, che è un'antenna a quadro. Quindi, a sua fine con bene in cussa. Scusa, cosa sta leggendo? No, va bene, in una maniera proprio nella... Scusa, per me tu, ti dico. Va bene, allora so potere, non ti preoccupi tu. Io ho fatto abito di quella, c'era una manetta. Allora, ho fatto abito, volendo, questo segnale è pieno, ma ti manca pure in tu, minimo, lo fatto arrivare, l'ho fatto fare su che freddo. Purtroppo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi ha fatto questo, se mi punto 20 compreso, le differenze figurami. Ok, vediamo il risultato. Ma per il caso che avrei provato pure con questa mia compresi punto ottimale. Per il suo segnale USB ti perde la connessione dati, ma il segnale entra e poi diventa sbobato, dovete andare. Perché non manda soltanto più si passa fuga. Vabbè, vai, adesso un dato, non se non fai delle linee non corrente, no, come te messa a tue. Il dato digitale si vede in diretto, sicuro. Sì, ma facevano tipo un capo al doppio, ci vuole andarci, ma di quel trattamento non è che altri è non va bene, devo essere pechente. Quando sono dato si vede, ne abbiamo un amplificatore di dato, e te lo fornisco, e insomma, se viene che la vieni pieno di amplificatore di dato, se beh cavo. Sì, ma Antonio lo penso. Boh, che travessare a voi, che bessino. No, no, il bigger è questa antenna con questi che da VCI. Ehi, già, vabbè. Fino a quando, no, quando ce l'ha preso, via. Dammi tre blocchi da tempo che ti faccio vedere da. Come la solente proprio delle picca. Ma no, io come entra poi sul baccone, questo se ne sono sicuro. Ma cazzo, è sempre un'antenna esterna, con te. Un'altra cosa. Oh, già, io non devo fare questa cosa, ragazzi. Se non faccio il filo, però, spirare, allora, se vai, se vai, se vai. Io non ho detto niente, guarda, io ho entrato qua, potrei andare a questo wireless, a becca bisogno. Boh, tutto a posto. Come potremmo fare sui grimos? Non lo può andare più da nessuno, compreso? Vabbè, se abbiamo provato questa legge. Pugli, ah, devi se lo lasciava bene la intro, boh. Fa. Tutti qua, comunque mi faccio ieri. Va bene, allora. Io mi come. L'ho contato sul tipo. Dove Massimo D'Acchira siamo tutti in mano. Se fare l'appoggiare, l'antenna è pronta. Mi dicevi solo della collegare i due, boh. Ok, va bene. Ci siamo più tardi, dai. Più tardi è una notte, dai. Ah, tu mi canotte, ciao ciao.